IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Vi parlerò oggi di similitudini e di movimenti impercettibili con degli esempi che riguardano la medicina. Quando guardiamo dei cani, un bassotto, un pastore bergamasco, un cocker, un boxer o addirittura un levriero, ci sembrano animali molto diversi. Visti da fuori lo sono, questo è vero, ma uno zoologo vi direbbe che essi sono tutti di una stessa famiglia, quella dei cani. Tutti i cani discendono dal lupo. Siamo noi che li abbiamo incrociati in mille modi, nei millenni abbiamo tirato fuori tutte queste geometrie che abbiamo oggi. Quindi un occhio esperto vede similitudini dove uno sguardo superficiale non è in grado di individuarle. E occhi esperti non umani possono vedere di più e meglio. Orobix è una startup di Bergamo che lavora in questa direzione. Luca Antiga, benvenuto. Grazie, salve a tutti. Allora, Orobix, e cioè voi, andate a caccia di similitudini. Ho già spiegato prima che cosa intendiamo per le cose che stiamo dicendo con similitudine. Vediamo subito un esempio concreto. Sì, parliamo di similitudine e cerchiamo di proporre questo paradigma quando, per esempio, cerchiamo di aiutare un clinico con un sistema con un certo grado di automazione a valutare dei marcatori su immagini biomedicali come quelle acquisite da TACO, da risonanza magnetica. Quindi segnali che sono determinanti per individuare una patologia e quindi una terapia successiva. Esatto, si parla di diagnosi che è sempre molto individuale o molto spesso individuale e quindi dalle immagini è possibile ricavare in diverse situazioni se il farmaco in quel paziente specifico risponde o no. Il vostro sistema lo mandate a caccia su migliaia e migliaia di immagini diverse e che cosa deve portare a casa allora? Sì, il sistema viene allenato a replicare quello che il sistema si trova su un dataset di riferimento. Immaginiamo di avere una grande campagna di acquisizione su pazienti di un certo tipo in cui degli esperti possono aver fatto dei tracciamenti manuali su immagini o possono aver identificato degli spot che sono di interesse nel determinare questo marcatore di cui abbiamo parlato prima. Quindi a questo punto io ho un grande numero di acquisizioni, un grande numero di pareri dell'esperto. Sì. I sistemi che utilizziamo sono in grado di apprendere da questa accoppiata immagini partenza e uscita desiderata, delle strategie per replicare questa uscita desiderata in modo ragionevole su dati che non ha mai. Quindi non si tratta tanto di definire a tavolino i criteri che portano da un'immagine alla presenza di un certo tratto distintivo di una patologia nell'immagine, ma si tratta di fare autoapprendere un sistema matematico, di fatto informatico, a riconoscere questi tratti automaticamente. E questo lo vediamo meglio dopo, ma mi dica se sbaglio, in pratica il sistema, l'algoritmo si troverà di fronte diverse immagini, per esempio di un organo, il colon, mettiamo, sì. Diverse immagini che corrispondono a procedure che diversi clinici, medici, no, hanno messo in atto su una certa patologia del colon e il sistema cerca di vedere quali di queste immagini appartengono a quella specifica tipologia, no? Cioè cerca similitudini che in altro modo non si riuscirebbero a vedere, insomma. Sì, le similitudini sono un po' un sottoprodotto del processo di apprendimento. Se volessimo fare un esempio così molto estremo, grezzo, ma serve per capirci, è un po' quando un esperto d'arte, no, vede opere diversissime e però riesce a riconoscere la mano di un certo autore, mentre invece noi, non avendo quella esperienza, pensiamo ad opere diverse. L'algoritmo cerca di individuare queste cose che ad occhio sembrerebbero molto diverse fra loro, invece però hanno un'importante similitudine. Le chiedo invece questa cosa, lei ha accennato a reti neurali, adesso non stiamo a entrare nel dettaglio, ma diciamo che sono algoritmi che riescono, quando li mettiamo in moto, progressivamente a costruire un proprio modo di analizzare la realtà mano a mano, cioè diventano sempre più abili nell'interazione con una missione che abbiamo dato a questo algoritmo. Le chiedo però, in un caso come questo e anche in altri, voi poi alla fine chiedete a questo programma di darci dei dati che siano assolutamente affidabili. Ma com'è che si fa a sapere che l'algoritmo ha raggiunto l'obiettivo? Cioè, a un certo momento sul monitor l'algoritmo dice: ok, ho capito tutto, possiamo incominciare a lavorare? Sì, l'algoritmo pensa sempre di aver capito tutto. Esistono varie metodiche per avere un riscontro di cosa la rete sta utilizzando per prendere una certa decisione. Ma queste sono molto importanti per noi. Mi sembra quasi capire che voi gli buttate delle esche, cioè delle cose che sapete bene come sono, e vedete se poi vengono riconosciute come tale. Sono dei test. Sì, possono essere dei test, possono essere dei tranelli. Effettivamente c'è tutta una nuova generazione di approcci sulle reti neurali, che si chiama GAN. Questo nuovo approccio si compone di due reti neurali. Una deve generare immagini finte, per esempio immagini di volti, e ha tanto più premio, tanto più riesce a imbrogliare l'altra rete neurale, che invece ha il compito di distinguere un'immagine sintetica generata dalla prima rete o un'immagine che viene da un dataset di volti reali. Facciamo loro un esempio, no? Cioè, vogliamo parlare di facce? Allora, c'è una rete che genera delle facce false? Finte, sì. Genera delle immagini, sì. Che all'inizio saranno immagini molto confuse, sì. E avrà un premio ogni volta che l'altra rete reputerà quella una faccia proveniente da un dataset di facce e non una faccia sintetizzata dalla prima rete. Quindi la prima rete deve imbrogliare, deve creare un'immagine che sia quanto più verosimile possibile per imbrogliare la rete che invece deve decidere se quella è una faccia finta o una faccia vera. Ah, quindi c'è una rete che ha i dati, quelli diciamo veri, che sono tanti tipi di facce, e ce n'è un'altra che genera magari delle simil facce. Bisogna vedere se la prima viene ingannata. La faccia che discrimina viene ingannata, esatto. Ok, quindi no, proprio il discriminator. Questo è un approccio molto efficiente, perché quel meccanismo dei tranelli di cui si parlava prima è proprio insito nella procedura di allenamento. Quindi la rete neurale che genera cercherà di creare più tranelli possibile per l'altra. Senta Luca, però ogni tanto voi che parlate di macchine che apprendono dite cose del tipo: e se sbaglia noi, come dire, la puniamo, le facciamo capire che non andava bene. Ma com'è che fate? Cioè, mi viene in mente Togni, il grande domatore, che dava i zuccherini ai cavalli se facevano bene. Come fate? Cosa vuol dire che le punite? Sì, vuol dire che c'è un calcolo che deve ritornare un numero che deve essere il più alto possibile o il più basso possibile. Quindi sostanzialmente, per punire una rete che non sta facendo bene, bisogna assegnare al lavoro che ha fatto su una serie di dati di test un numero, un voto, un punteggio esatto, che una componente di ottimizzazione numerica tenta di tenere il più alto possibile. E quindi lì, se prende un voto basso, capisce un'altra volta che non va bene, se arriva lo stesso. Esatto. E prova a modificare i parametri numerici all'interno della rete neurale per ottenere un punteggio maggiore. Niente, esatto. Di sanguinario. Esatto, esatto. Il nostro corpo ha un suo linguaggio. Non camminiamo né corriamo tutti nello stesso modo, né gesticoliamo in modo identico. Abbiamo movimenti della bocca, delle sopracciglia che presentano grandi differenze. Anche se soffriamo di una sciatica, le nostre gambe si muoveranno in un modo diverso da prima, quando non l'avevamo. Questo linguaggio del corpo può essere molto più ricco, articolato, di quanto pensiamo. Roberto Cingolani, direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha di recente siglato un accordo di ricerca con il Centro Dognocchi di Milano proprio per un'attività congiunta nel campo degli strumenti per la riabilitazione, ci racconta una tecnologia con la quale si cerca di individuare piccolissimi movimenti del corpo. A livello clinico ci sono una serie di applicazioni nuove che stanno emergendo. Per esempio, una accoppia sistemi di rilevamento del movimento, che studiano le fluttuazioni della cinematica del movimento di una persona. Accumulano tantissime immagini, quanto un essere umano non potrebbe, a meno di non stare 24 ore a contemplare un'altra persona che si muove. Analizzano queste immagini di movimento con grande precisione e misurano le fluttuazioni della cinematica del moto, per esempio alcune situazioni nell'afferrare un oggetto, alcune situazioni nel muovere dei passi, eccetera. E da questo possono dare delle indicazioni molto molto precoci sul fatto che stia insorgendo qualche malattia, disturbo neurodegenerativo o di altro genere. Altro settore in cui forme di intelligenza artificiale sono applicate è quello che riguarda l'interazione dell'uomo con la macchina, no? È chiaro che se io immagino di avere un robot assistivo che assiste l'essere umano in ufficio, in ospedale o in casa, diciamo il robot badante, per quanto non avrò mai un interlocutore con cui parlare di filosofia, di poesia, eccetera, però avrò una macchina che probabilmente in futuro sarà in grado di almeno comprendere le mie intenzioni principali, se guardo una cosa perché la voglio, se indico una cosa perché mi serve. Ecco, per una macchina interpretare un movimento, un gesto e quindi in certo qual modo percepire l'intenzione di un essere umano è una sfida enorme. Noi siamo abituati a parlare con i nostri simili, vediamo che una persona guarda da una parte e capiamo che seguendo lo sguardo, no, ha un desiderio. Per la macchina questa è una cosa difficilissima, cioè capire l'intenzione è molto complesso. Lì c'è una sfida per l'intelligenza artificiale che è enorme. Ma quando tu prima dicevi riuscire a intercettare i micromovimenti, no? Ecco, anche lì si potrebbe pensare, c'è un sistema di rilevamento video, abbiamo tanti dati e analizziamo quelli. Invece ci deve essere di più, cioè la macchina deve essere anche in grado di interpretare e creare classificazione di questi movimenti. No, non voglio sovrasemplificare, però la macchina dovrebbe in un certo qual modo avere una statistica tale nella sua memoria da sapere come un certo movimento statisticamente da una persona sana è compiuto e poi determinare nell'analisi di tante persone se alcune di queste hanno delle fluttuazioni cinematiche rispetto a questo movimento che è considerato sano, mettiamolo giù così. Ovvio che questo è molto semplificativo come discorso, non è esattamente così, però diciamo che ci sono piccole variazioni di traiettoria, piccole variazioni cinematiche che se succedono una volta ci può stare, ma se sono ripetitive nelle 24 ore, nei giorni eccetera, e questo solo una macchina che accumula le immagini, che le analizza costantemente lo può vedere, beh, questi possono essere segni prognostici, ma è un settore nuovo, è da studiare, da capire. In questa puntata avete sentito spesso parlare di reti neurali. Prendono il nome dai neuroni, quelli che abbiamo nel cervello, perché cercano di imitarlo. Non è banale spiegare in poche parole cosa siano queste reti. Possiamo metterla così. La rete tiene dentro tutti i dizionari di tutte le lingue, per esempio. Da una parte della rete entrano delle parole di una lingua e queste parole giracchiano nel database. Poi esce una traduzione da un'altra parte. Sarà una roba orrenda. Allora il software interno le dice: hai prodotto una schifezza, riprova, e alla via così finché impara. Non c'è un software che traduce, quindi attenzione, c'è una rete che impara e questo è molto diverso. Buona intelligenza a tutti e a tutte e per scrivere intelligenza artificiale @radio24.it con due A al centro.